Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano. Buongiorno a tutti anche per questa giornata di martedì 15 ottobre. Naturalmente parleremo degli esteri, dell'aggressione fascista della Turchia alla Siria e al territorio curdo e anche delle sentenze politiche repressive di quella che si definisce una Spagna democratica ma che in questa occasione non ha dimostrato grande democrazia. Parliamo naturalmente della Catalogna e delle condanne comminate ai dirigenti di indipendentisti. Comunque subito a Radio Bullet, buon ascolto. Buongiorno e benvenuti nella raffica di notizie che ci racconta il mondo che ci circonda. Sono Barbara Schiavulli e questi i titoli di oggi. Stati Uniti, sanzioni contro la Turchia, il vicepresidente degli Stati Uniti vola ad Ankara per negoziare il cessate al fuoco. Iran, operazione per rapire un giornalista in esilio e incarcerarlo in patria. Egitto, la password o la vita, attivista racconta di essere stata torturata dopo il suo arresto. Tunisia, Kais Saied vince le elezioni e Nuova Zelanda crea un'unità per combattere l'estremismo online. E il Pakistan infine triplica le tariffe per l'importazione dei melograni dall'Afghanistan. Questo e molto altro nel web notiziario di Radio Bullets. Arabia Saudita, il principe Bin Salman e il presidente russo Vladimir Putin hanno discusso di terrorismo e di problemi regionali. Hanno parlato di Siria e Yemen e dell'importanza di combattere l'estremismo e il terrorismo e di come prosciugare le loro risorse. Prima della visita, Putin ha detto che la Russia poteva giocare un ruolo nell'alleviare le tensioni nel Golfo dopo una serie di attacchi alle imbarcazioni internazionali e contro le principali strutture petrolifere del regno. Agenti della Guardia Rivoluzionaria iraniana hanno catturato e riportato in Iran un giornalista in esilio, ritengono che abbia alimentato i disordini durante le proteste dello scorso anno con i social media. Ruhollah Zam, un giornalista diventato attivista, guidava Ahmad News con oltre 1 milione di followers con sede in Francia e in altre parti d'Europa. La cattura di Zam, specificato in una dichiarazione televisiva, è stata un'operazione complessa dove l'intelligence ha utilizzato l'inganno. Non è stato detto dove si sia svolta l'operazione, ma ora il giornalista dovrebbe essere in un carcere iraniano. Siria, il vicepresidente americano inviato in Turchia per guidare una delegazione con il consigliere per la sicurezza nazionale, dovranno avviare trattative per un cessate al fuoco. Trump ha detto di volere che Erdogan cessi l'invasione e inizi a negoziare con le forze curde. Trump ha firmato sanzioni americane contro la Turchia che colpiscono funzionari del governo, tra i ministeri presi di mira, quello dell'energia e della difesa. Bloccati anche i negoziati americani turchi su un accordo commerciale da 100 milioni di dollari. Le forze armate turche hanno respinto le accuse dei curdi e contrattaccato dicendo che sono stati loro a far scappare i militanti dell'ISIS dalle carceri che i militari turchi dicono di aver trovate vuote nel nord della Siria. Trump ha pensato e poi twittato che i curdi potrebbero aver rilasciato i combattenti dell'ISIS per coinvolgere gli Stati Uniti e farli restare. Intanto però è stato evacuato uno sparuto gruppo di diplomatici americani assegnati al nord-est e il Pentagono ha confermato ieri il ritiro dei militari americani sempre nel nord-est. Il presidente Erdogan ha ribadito di non avere intenzione di fermare l'offensiva nel nord. Siamo determinati, finiremo quello che abbiamo iniziato, e si scaglia contro il Regno Unito e la Germania che tentano di mediare, ma il presidente turco risponde: sono disinformati, la NATO o con noi o con i terroristi. Le milizie filoturche hanno attaccato la zona di Mamgi a ovest dell'Eufrate. È morto un giornalista curdo, Muhammad Efrin, era rimasto ferito durante un attacco di 2 giorni fa a Serenkaniye. Nello stesso attacco erano morte altre 14 persone, tra cui un altro giornalista curdo. Secondo il Ministero della Difesa turco, 560 militanti, loro li definiscono terroristi, del PKK, PID e YPG, sono stati neutralizzati dall'inizio dell'offensiva martedì scorso. Intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di cure necessarie per 1,5 milioni di persone. Nell'area degli scontri ci sono 200.000 sfollati. L'UNICEF precisa 70.000 sono minori. E gli ospedali, anche se Mosca smentisce, sono sotto attacco. Mosca avrebbe anche dato l'ok ai turchi per attaccare Kobane, mentre l'esercito siriano si schiera accanto ai curdi. Sul fronte internazionale la Francia si prepara a prendere misure per proteggere il personale militare di stanza nel Nordese in coordinamento con i curdi e contro l'avanzata turca. L'Unione Europea limita la vendita di armi alla Turchia ma evita l'embargo. La Repubblica Ceca ferma le licenze di esportazioni di armi alla Turchia e il Cremlino dice ad Ankara di assicurarsi che l'operazione in Siria sia proporzionata. Il Regno Unito invece ha accusato di mettere avanti gli accordi commerciali prima di condannare la Turchia. Egitto, la password o la vita. Attivista egiziana Abdel Fattah ha raccontato ai pubblici ministeri di essere stata torturata dopo l'arresto, ha detto di essere stata appesa con le mani sopra la testa per 8 ore mentre veniva interrogata, picchiata e torturata. Abdel Fattah, 41 anni, è una dei leader iconici della rivoluzione del 2011, catturata da agenti in borghese sabato sera. È una delle migliaia di egiziani arrestate nelle ultime settimane, dissidenti, critici del presidente per il governo, accusati di diffondere notizie false, di abusare dei social media, ha spiegato suo avvocato Khaled Ali. I dettagli del colloquio dell'attivista sono stati condivisi da Mohamed Salah, un amico giornalista, su Facebook. Ha detto che l'amica è stata avvertita che se avesse parlato pubblicamente del suo interrogatorio avrebbe dovuto affrontare torture peggiori, ma lei è pronta, ha scritto in un messaggio al suo avvocato, a pagare il prezzo per aver detto quello che è successo, in modo che le persone possano essere consapevoli della verità. Un altro amico, Solafa Magdi, ha detto che la donna avrebbe deciso di fare lo sciopero della fame, avrebbe lividi sulle mani, sulle spalle e sulla schiena. Abdel Fattah, che ha cofondato il movimento del 6 aprile del 2008 con Ahmed Maher per promuovere i diritti dei lavoratori, unire gli egiziani per proporre una serie di richieste a favore della democrazia. Il gruppo è stato tra i principali organizzatori delle proteste del 2011 ed è ora fuori legge. Attualmente specializzata in media digitali e giornalista presso il quotidiano pro-governo Al-Yum Al-Sabah. Libia, un bombardamento su un quartiere residenziale della capitale ha ucciso ieri 3 bambine, tutte sorelle. Un altro bambino e una donna sono rimasti feriti. Secondo il Ministero della Salute, i medici hanno dovuto amputare una gamba del bambino, mentre la donna è in condizioni critiche. Il governo di accordo nazionale, riconosciuto dalle Nazioni Unite, ha detto che le forze fedeli al comandante Haftar, leader dell'ES, sono responsabili del raid. Haftar, che sostenuto da Egitto ed Emirati Arabi, ha lanciato un'offensiva lo scorso aprile per conquistare Tripoli, restando impantanati alla periferia. La Marina libica ha raccolto 94 migranti in mare, ignoto il loro destino. Tunisia ha ucciso un turista francese accoltellato al grido Allah è grande. Intanto ha vinto le elezioni presidenziali, il ballottaggio si è tenuto domenica. Kais Saied con il 72,71% dei voti. L'avversario Nabil Karoui ha ammesso la sconfitta ieri, l'affluenza è stata del 55%. Nigeria, la polizia del nord ha salvato 67 tra uomini e ragazzi da una seconda sedicente scuola coranica dove erano tenuti legati e sottoposti a trattamenti disumani e degradanti. Il raid a Katsina, lo stato natio del presidente Muhammadu Buhari, è avvenuto meno di un mese dopo che circa 300 uomini e ragazzi sono stati liberati da un'altra presunta scuola islamica nel vicino stato di Kaduna, dove i ragazzi sono stati torturati e abusati sessualmente. Nel corso delle indagini, 67 persone di età compresa tra i 7 e i 40 anni sono state trovate incatenate, ha detto il portavoce della polizia di Katsina, Sanusi Buba. È stato scoperto che le vittime sono state sottoposte a vari trattamenti disumani. Grecia, oltre 5.000 persone sono state evacuate dopo che un incendio ieri sera ha colpito un centro di ricezione e accoglienza sull'isola di Samos. 8 persone sarebbero finite in ospedale. I media locali parlano di uno scontro tra profughi iniziato nel pomeriggio e di un minore accoltellato. Kosovo, la commissione elettorale. Sono una ventina le persone che si sono sentite male, da bruciore allo stomaco a rash cutanea, mani e viso, dopo l'apertura delle schede elettorali giunte dalla Serbia. Si trattava del voto dei serbi della diaspora con cittadinanza kosovara, in gran parte profughi, conseguenza del conflitto di fine anni 90. Le autorità di Pristina parlano di avvelenamento, anche se non c'è nulla di chiaro. Le schede arrivate dalla Serbia sono 3.500 e dopo i primi sintomi lo spoglio è stato sospeso. Per Belgrado è una messa in scena per annullare le schede di Srpska lista, il maggiore dei partiti della comunità serba che ha ampiamente vinto le elezioni parlamentari del 6 ottobre. Ungheria, brutto colpo per il premier di estrema destra Orban. Oltre che alla capitale Budapest, l'opposizione ha conquistato altri 11 dei 23 capoluoghi in gioco, strappandone 9 al partito populista del premier. Proteste a Barcellona, 37 feriti e 108 voli cancellati dopo che la Corte Suprema spagnola ha condannato 9 leader separatisti catalani a pene detentive fino a 13 anni di carcere per la loro richiesta di indipendenza nel 2017. È stato emesso un mandato di arresto dell'ex leader Puigdemont, che vive in autoesilio in Belgio. Messico, alcuni uomini armati hanno ucciso 14 poliziotti ieri in un'imboscata nello stato di Michoacán, nel Messico occidentale, regione inquieta e hotspot per gruppi criminali e vigilanti. Secondo i resoconti dei media locali, la polizia di stato stava eseguendo un mandato alla periferia della città quando uomini armati in camion blindati 4x4 hanno aperto il fuoco, hanno incendiato almeno 2 auto di pattuglia e nel caos che ne è seguito hanno lanciato messaggi minacciosi diretti alle forze di sicurezza sulla scena. Celebrations in Ecuador as President Moreno agreed to axe his fuel. Scoppia la festa, per un attimo si fermano le proteste che in 12 giorni hanno registrato 7 morti, raggiunto un accordo. Con questo accordo, si legge sul comunicato congiunto finale del presidente Moreno e dei leader della protesta indigena, le mobilitazioni in tutto il paese sono terminate, insieme ci impegniamo a ripristinare la pace. Moreno ha annunciato durante la notte di aver deciso di annullare il decreto esecutivo 883 che eliminava i sussidi di carburante come voleva la Confederazione delle nazionalità indigene dell'Ecuador. Secondo il quotidiano di Stato El Telegrafo, sarà creata una commissione nella quale parteciperanno rappresentanti del governo e dei gruppi sociali con l'obiettivo di concordare interventi di politica economica. Il Pakistan ha triplicato le tariffe doganali sui melograni che arrivano dalla provincia di Kandahar in Afghanistan. Il Pakistan è uno dei principali mercati per i melograni di Kandahar. I coltivatori portano la maggior parte dei loro prodotti oltre confine. La Camera di Commercio e gli investimenti di Kandahar hanno detto che il Pakistan sta aumentando fino a 300.000 rupie pakistane, $1.913 per carico. Vietnam has pulled the plug on DreamWorks. Ritirato dalle sale cinematografiche il film di animazione Il piccolo Yeti, una coproduzione americana-cinese, dove in una scena compare una mappa del Mar Cinese meridionale con la linea 9 tratti che la Cina ha tracciato per rivendicare la quasi totalità di uno spazio di mare conteso tra diversi paesi, tra cui il Vietnam. Indonesia, 21 sospetti militanti arrestati, accusati di aver pianificato attacchi, aver accoltellato qualche giorno fa il ministro della sicurezza, un capo della polizia locale, un terzo uomo, sequestrate molte armi. Giappone, sale a 67 il bilancio delle vittime del tifone Hagibis, 21 argini dei fiumi sono crollati e 38.000 le persone sfollate, poche speranze per una quindicina di persone che risultano scomparse. E concludiamo con la Nuova Zelanda, che costituirà una squadra di investigatori dedicata esclusivamente alla lotta contro l'estremismo online, mentre affronta i fallimenti esposti dalle sparatorie nella moschea di Christchurch, ha affermato il primo ministro Jacinta Ardern. La Ardern ha guidato gli sforzi internazionali per costringere le aziende tecnologiche a reprimere il materiale estremista da quando un attentatore ha ucciso 51 fedeli musulmani il marzo scorso, trasmettendo in streaming parte delle atrocità su Facebook. L'Arden ha aggiunto che l'attacco che ha preso di mira due moschee nella città dell'isola del Sud ha dimostrato che il suo governo aveva bisogno di migliorare le risorse per frenare la diffusione dell'odio online. E da parte nostra è tutto. Radio Bullets è una testata giornalistica indipendente creata da giornalisti che credono nella necessità di raccontare il mondo. Per vivere ha bisogno del sostegno di tutti, anche piccolo. Potete andare su www.radiobullets.com/sostienici. E anche per oggi grazie a tutti. Appuntamento a domani con Paola Mirenda e una nuova raffica di notizie. Simonio, 5 parole per condire il tuo linguaggio. Buongiorno e benvenuti alla 22esima puntata del Pinsimonio. Oggi andiamo ad approfondire dei termini che potrebbero ritornarci utili per descrivere quello che accade intorno al conflitto e che sono adirare, arrovellare, crucciare, trepidare e stizza. Cominciamo quindi con adirare, che significa essere preso dall'ira, mostrare con parole o con atti più o meno violenti l'interno sentimento d'ira, di stizza o di risentimento, come adirarsi con qualcuno o contro qualcuno, adirarsi per giusta ragione oppure senza motivo. Nell'uso poco comune significa anche irritare, provocare irritazione e fastidio. Il participio passato, che magari è più conosciuto, è adirato, che è usato specialmente come aggettivo per intendere qualcuno pieno d'ira, qualcuno che si mostra adirato. E continuiamo con arrovellare, che deriva curiosamente dal latino rebellare, che significa rinnovare la guerra. Arrovellare significa innanzitutto infastidire o tormentare, o più comunemente in senso riflessivo, rodersi internamente, arrabbiarsi o stizzirsi, come non arrovellarti per queste sciocchezze. Altrimenti può anche significare appunto l'affannarsi o lo sforzarsi con accanimento e quasi con stizza nel raggiungere uno scopo, si arrovellava inutilmente a convincerlo. Continuiamo con crociare, che anche significa tormentare, affliggere o indispettire. Più comunemente si usa in senso riflessivo come crucciarsi, ossia affliggersi, adirarsi, stizzirsi. Perché ti cruci tanto? Il participio passato è crucciato, che come aggettivo significa adirato o risentito. E da crucciare viene il cruccio, che è l'afflizione o un tormento, un dolore, spesso misto a dispetto o a risentimento, ed è anche la sua manifestazione esterna come atto d'ira, di sdegno o di furore. Quindi crucciare e cruccio. Continuiamo con trepidare, che esprime uno stato di sollecita preoccupazione o di ansia timorosa, come tutti trepidavano per la sua sorte. E infine stizza, come stizzare, che abbiamo visto nelle parole precedenti. La stizza è un'irritazione non violenta ma improvvisa e scontrosa, che nasce soprattutto dalla scontentezza, dalla contrarietà o dal fastidio. Provare stizza per qualche cosa. Grazie per aver seguito il Pinsimonio, noi ci ritroviamo sempre qui domani alle 9:15. Buona giornata. Ascolta il Pinsimonio su Radio Città Fujiko oppure in podcast sulla pagina Facebook Il Pinsimonio Radiofonico. Ringrazio di cuore H che ci ha offerto la base per questa puntata, le cui produzioni sono reperibili su soundcloud.com/hcmc. Il Pinsimonio è curato e condotto da Maurizio Casertano. Le definizioni delle parole proposte in questo programma sono tratte direttamente dal sito dell'Enciclopedia Trecani, per gentile concessione dell'editore. È vietata qualsiasi riproduzione e utilizzazione di carattere non strettamente personale, e la ritrasmissione in rete o l'invio in qualunque forma. Grazie e buona giornata. Il Pinsimonio, 5 parole per condire il tuo linguaggio. Thank you.

know she's all right. I don't know she's all right. She's all right, she's all right. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Sciogliete le righe prima della resa dei giornali. Nove 31 minuti di questo 15 ottobre, martedì, la scenario internazionale è ancora uno di quei momenti storici della vicenda umana che unisce la farsa alla tragedia. La tragedia chiaramente è quella che si consuma nei territori medio orientali, dello Yemen al Kurdistan, con massacro di innocenti, con la Turchia e il fascista Erdogan che invadono la Siria con il bombardamento dai cieli e con una truppa di terra fatta di integralisti islamici, tagliagole e quanto di più o di peggio si possa pensare, che uccidono, massacrano, violentano, lapidano. E questa è la tragedia. D'altra parte la farsa invece, vedremo, è l'Europa. L'Europa che fa il pistolotto di buoni sentimenti e nella concretezza non cambia nulla rispetto alla vicenda del popolo curdo. E cominciamo allora dalla vicenda della tragedia. Abbiamo questi spunti. Adesso Erdogan vuole Kobane, città chiaramente simbolo dell'esistenza curda. E il Corriere scrive: l'Italia blocca le armi alla Turchia. Sì, un lancio che serve per i giornali ma che non ha nessuna efficacia, come vedremo più avanti. Stop europeo alla vendita. Trump, sanzioni contro i leader di Ankara e dazi del 50% sull'acciaio. Questo e poi c'è il ruolo di Putin. Il leader russo farà valere il suo appoggio ad Assad e il sodalizio col presidente turco. Quindi con la sua ignavia vigliaccheria, il tradimento di Trump di fatto sembra tirare fuori l'America dallo scacchiere medio orientale del petrolio. E c'è questo elemento della allora Trump afferma: la gente pensa, leggo dal Fatto Quotidiano, veramente che dovremmo andare in guerra contro un alleato che è anche un membro della NATO? Le guerre infinite finiranno. Prima o poi, dice, finiranno, dice Trump. E il commento di Massimo Fini: mistero, che cosa ci fa la Turchia nella NATO? Ma direi che ci sta benissimo la Turchia nella NATO, perché la NATO è da sempre non un sistema di difesa, ma è un sistema di offesa, di oppressione, quindi ci sta come il cacio sui maccheroni. Anche perché ci sarebbe anche l'estrema beffa oltre l'estremo danno. L'articolo 5 del trattato NATO ci si ricorda al giornale: se Damasco attacca un paese della NATO, per fermarlo si potrà usare la forza armata. Quindi, in caso di attacco della Siria contro la Turchia, recita Erdogan, potrebbe chiedere l'attivazione dell'articolo 5 del trattato NATO, trascinando in conflitto gli alleati europei. Quindi ci schiereremmo con i turchi contro la Siria e contro i curdi. Questo è quello. La vicenda della Siria è un boccone davvero amaro per il popolo curdo, perché torna Assad, quindi aumenta la resistenza armata contro l'invasione turca. È la resa dei curdi, però, perché la frontiera si ammassano i civili in fuga dopo l'accordo con Damasco, e mentre già sventola la bandiera siriana cresce il rimpianto per l'autonomia persa, perché di Assad evidentemente non si fida assolutamente nessuna, ma dicono i curdi: quelli ci vogliono massacrare, e allora non possiamo dire no a questo aiuto. Infatti i comandanti dell'IPG dicono al Roberto Zunini del Fatto Quotidiano: Ankara ci vuole morti, Damasco è necessaria, ma addio ai nostri sogni. Questo è il quadro che arriva dalla pagina della tragedia, mentre la farsa poi si riempie di simboli, di polemiche, di cose che francamente fanno folklore, ma sono come non neanche delle sovrastrutture, dei soprammobili, tipo il calci guerra. Stefano Montefiori del Corriere: al match con la Francia tornano i saluti militari, diventa un caso la finale di Champions. Spadafora: non giochiamola a Istanbul. Sì, ma non solo il mondo del calcio si ribella, è anche il mondo di altri sport. Questa mattina, grazie alla redazione del Mood Groove con Enrico Forte e la presenza nel campionato massimo statunitense professionistico della NBA, il centro dei titolati Boston Celtics, Enes Kanter, turco, si è dichiarato un oppositore del regime di Erdogan. Beh, uno dice è oltreoceano. No, non è il discorso di essere oltreoceano. Il coraggio di questo atleta è tanto, perché la sua famiglia e i suoi amici in Turchia sono stati tutti fermati, gli sono stati ritirati i cellulari e i computer e rischiano la libertà, o quello che ne rimane per colpa del dittatore Erdogan, di essere imprigionati, di essere fermati. Lui si è dichiarato un oppositore, si è dichiarato contro il regime fascista di Erdogan. Beh, più che il mondo dello sport ci aspettiamo qualcosa, un segnale forte dall'Europa, ma più che proclami, come diceva giustamente Alfredo, poco si vede. In concreto, La Repubblica è il titolo principale. Europa, vergognati, la sporca guerra, l'Unione Europea condanna Erdogan, ma solo a parole. Il nostro governo blocca la vendita delle armi, ma solo per il futuro. Sì, poi vedremo, e adesso ci pensiamo. Insomma, le truppe turche avanzano sulla città simbolo di Kobane. L'esercito siriano entra nei territori curdi, si alza il livello dello scontro tra l'incudine e il martello Kobane, che ne fa le spese, soprattutto per quanto riguarda la popolazione civile, che in un contesto cruento ha la colpa di essere a difesa della democrazia. A pagina 2 e a pagina 3, Unione Europea basta armi ai turchi, ma solo in futuro. Compromesso al ribasso del ministro degli esteri, lo stop non vale per i contratti in essere. Un bel coraggio anche dichiarare questo. Parigi per una linea più dura, Germania e paesi di Visegrad frenano, Trump annuncia sanzioni. LK nelle bignette sempre illuminate, ma in questo caso quanto mai tristi. Basta vendite di armi a Erdogan, dicono i due personaggi, l'altro risponde: e ormai non sa neanche più dove metterle, talmente gliene abbiamo vendute, corresponsabili di questa situazione grave. La forza in campo, Stati Uniti, Russia, Assad girandola di alleanze, così cambia il risico. Erdogan intanto punta su Kobane, verso lo scontro frontale con l'esercito di Damasco. È un assalto a quella che ho definito prima città simbolo, che è praticamente tra un incudine e il martello di forze veramente schiaccianti. E se hanno imparato qualcosa da questo è difendersi assolutamente, soprattutto per quanto riguarda la parte di donne che impegnate a difendere i loro territori e a difendere le loro conquiste in un territorio che certamente non è a favore di progresso, libertà per i diritti civili e tutto quello che deve essere in crescita in un paese e nello sviluppo. Dal calcio europeo, no a Istanbul, spostate la finale di Champions e il saluto militare della squadra turca ieri a Parigi per Francia-Turchia. Un'immagine inquietante, ricorda il braccio teso durante i campionati e le Olimpiadi, in tempi certamente cruenti, violenti, massacranti per l'Europa e per il mondo, della seconda guerra mondiale durante il nazismo. Dopo il saluto militare dei giocatori turchi nel match contro l'Albania, ripetuto ieri il gesto a conclusione della partita in Francia. Anche il manifesto chiaramente mette un titolo disarmante: l'Unione Europea condanna, ma lo mette tra virgolette la parola condanna, Ankara, ma sceglie di non decidere sull'embargo unitario di armi al sultano Erdogan, quindi hanno in ballo una quantità di denaro enorme. Di Maio annuncia l'addio italiano alle forniture militari, ma in futuro. Le forze turche intanto non minacciano solo Kobane, ma anche la città di Manbij, 200.000 gli sfollati in fuga, e dopo l'accordo con i curdi l'esercito di Damasco entra a Rojava, quindi un innalzamento del livello di violenza. Assad, Erdogan verso la guerra, no dell'Unione Europea all'embargo. Sono passato al quotidiano torinese Della Stampa. L'Europa divisa dice no all'embargo sulle armi, decideranno i singoli paesi, quando invece dovrebbe essere una decisione immediata e subitanea. Misure contro la Turchia solo per le trivelle a Cipro. Di Maio, decreto per bloccare le commesse. Tanto ricordo quello che ha confermato, cioè che i contratti in essere, pensate la quantità di denaro, ovviamente sono ancora presenti e molto molto inquietanti per quanto riguarda la situazione nelle zone di cui abbiamo dato descrizione finora. Chiude il Carlino la Stalingrado medio orientale in un occhiello di approfondimento solo a pagina 8. In prima pagina, ricordando che il Carlino ha una nuova impaginazione da adesso, Quindi il quotidiano felsineo ci riporta, con attacco alla Siria a pagina 8 per gli esteri, la Stalingrado medio orientale è uno dei luoghi simbolo del Kurdistan dopo la strenua resistenza all'ISIS nel 2014-2015. E allora ecco qua che c'è il problema delle armi, e secondo Astengo del contropiano giornale comunista online, potrà mai il piccolo popolo curdo fermare il grande business delle armi? Io penso di no, dice Astengo. Infatti cita poi in questa pagina la ricerca svedese SIPRI, il più autorevole di questa analisi. L'anno scorso il mondo vengono spesi circa 1.686 miliardi di dollari per acquistare armamenti. Washington è il resto leader mondiale della vendita delle armi, seguito da Russia, Francia, Germania e Cina. Il 52% delle armi USA vanno in Medio Oriente, 52%. L'Arabia Saudita ha aumentato l'import di armi del 192%. Al terzo posto l'Egitto, con una crescita del 206%. Diminuiscono dell'87% le esportazioni di armi in Siria. Il volume del commercio internazionale, continua a leggere questi dati che sono esplicativi, molti più di tanti articoli e tanti buoni sentimenti, il volume del commercio internazionale di armi pesanti nel quinquennio 2014-2018, secondo l'agenzia ASN News, ha superato il 7-8% tra il 2009 e il 2013 e il 23% nel periodo 2004-2008, non è che si spendesse poco nel 2004-2008. Invece la classifica, i 5 principali esportatori sono Stati Uniti, Russia, Francia, Germania e Cina. Messi insieme, questi 5 paesi valgono il 75% del volume totale di esportazione di armi nell'ultimo quinquennio. Il flusso di armi è aumentato in Medio Oriente tra il 2019 e il 2013 e tra il 14 e il 18, mentre vi è stata una diminuzione per tutte le altre regioni del pianeta. Quindi poi si continua poi di questo tenore. Ma parliamo dell'Italia, che è convintamente dalla parte della pace contro la Turchia. Ahimè, il dossier di Fausto Bilosolo dal giornale ci dice cose diverse. Roma schierata contro Ankara, ma due generali in Turchia. Gaetano Zaunar, subentrato da Antonio Vitiglio a Istanbul e con Gini Italiano sotto l'egida di chi? Della NATO. Quindi cosa ci sta a fare la Turchia della NATO? Ci sta benissimo la Turchia della NATO. Tra l'altro il generale Massimo Del Casale, presidente del Centro Studi della Difesa, in visita ad Istanbul proprio al comando turco della NATO, del corpo di dispiegamento rapido, ha detto: il vostro lavoro è importantissimo perché portate un pezzo d'Italia in un altro paese, siete ambasciatori del nostro modo di operare per la sicurezza, dando il contempo lustro alle forze armate in un contesto di sia multinazionale che multietnico. Peccato, commenta quindi allo Birlozzo, che i commilitoni turchi pochi mesi dopo hanno invaso la Siria e massacrano i curdi. Questo è l'alleanza atlantica NATO, né più né meno. E c'è poi l'aspetto geopolitico, che pensando anche allo Yemen, guerra dimenticata ma non certamente meno terribile, è decisiva per creare poi future guerre, ahimè. Allora analisi Gian Michele Sini, la grande occasione di Putin, il pacificatore che dovrà tenere a base l'ISIS e Teheran. Ricordiamo che Erdogan libera i prigionieri dell'ISIS e i falangisti dell'ISIS e li ruola nel suo esercito feroce di terra. La zar protagonista Putin, le incognite, ricostruzione e reintegrazione dei rifugiati. Questo terreno si occupa anche Slossi Sissi Bellomo del Sole 24 Ore. Putin a Riyadh rafforza l'influenza russa in Medio Oriente. Costruita l'asse del petrolio, l'alleanza è ormai anche politica. Quindi anche con Riyadh l'America è sempre più ai margini. E ancora, invece, vado dalla geopolitica alla nostra politica, alla nostra visione del mondo, con Io sono curda di Massimo Gravellini, il caffè di questa mattina, il Corriere. I curdi non invadono, non minacciano, difendono, e non solo un territorio, ma i diritti che hanno conquistato. La regione del Rojava del nord-est della Siria, bersaglio uno degli eserciti più potenti e maschilisti del mondo, è una lampadina di civiltà nel buio, pesto in una sterminata barbarie. L'amministrazione curda ha sincronizzato gli orologi sul XXI secolo, non soltanto abolendo le nozze forzate e il diritto d'onore, ma permettendo alle donne di studiare e di scegliersi liberamente il loro posto nel mondo. Il confronto con i valori che animano i cavernicoli dell'ISIS e le truppe del gerarca turco Erdogan non potrebbe essere più stridente. Dall'altra parte c'è una massa di maschi invasivi e invasati, retorici, ipocriti, fin dal nome che si sono scelti per la loro campagna distruttiva, pace a primavera. Le soldatesse curde hanno deciso di chiamarsi unità di protezione, perché questo fa una donna quando è libera di obbedire al suo istinto e cerca di proteggere la terra che ama e la vita di chi ama. Nei limiti del possibile lo stiamo rivedendo anche oltre. Questa è la vicenda che lascia davvero un amaro in bocca insopportabile. E ci mancherebbe solo l'ennesima beffa a livello italiano, come segnala Andrea Giambartolomei, questo rischio, da volontari a sorvegliati speciali. Rischiano misure restrittive i ragazzi che partirono per il Kurdistan. Il fatto che i tre siano stati in zona di guerra non significa che siano pericolosi anche in Italia. Certo, abbiamo altre notizie anche dall'estero, oltre che i rapporti tra Europa, Italia, Medio Oriente in una situazione grave, ma anche in Europa tornano fuori realtà di cui abbiamo parlato e abbiamo posato i riflettori anche dalla nostra emittente in passato con grande attenzione. Siamo in Spagna per la precisione nel contrasto fra la Spagna e Barcellona, ricordiamo la divisione per stati all'interno di una realtà federale e di un contesto culturale e storico certamente con percorsi diversi gli uni dagli altri. Sentenze pesanti per i leader catalani, ricordate i dimostranti e il passato in piazza e scontri cruenti da parte della repressione che veniva da Madrid contro tutto quello che doveva essere una realtà di indipendenza catalana. E adesso Barcellona torna alla rivolta, i dimostranti occupano l'aeroporto. Quindi anche in Europa, come possiamo ben vedere, certamente unita, ma il più delle volte sulla carta, e per quanto riguarda progetti di progresso e unità non direi proprio di poter adoperare la parola unita. Leader catalani, pene fino a 13 anni, gli anni in totale saranno tantissimi. I giudici arrestate Puigdemont, ricordate il leader, e il processo ai separatisti vede andare in doppia cifra, anche se non sono punti realizzati, ma sono purtroppo anni di carcere. 13 anni a Junqueras, 12 anni Romeva, 12 anni Turull, 12 anni a Bassa, 12 anni a Forcadell, e potrei andare avanti fino a raggiungere una cifra di detenzione veramente molto molto importante. Proseguiamo con altri quotidiani dopo l'approfondimento di Repubblica, dalla cifra piena, un secolo di carcere per gli indipendentisti, proteste e cariche all'aeroporto di Barcellona, le pene per il referendum proibito, condannati leader separatisti, scoppia la rivolta, bloccate stazioni e strade, voli cancellati per gli scontri. A fondo pagina, è stato un giudizio trasparente, parla al ministro della sanità da Madrid, la dirigente del PSOE, i leader separatisti hanno superato il confine della legge e dello stesso statuto di autonomia, la Spagna è uno stato di diritto, dice, si processano i fatti e non le idee. Questo che proviene dal quotidiano torinese, sicuramente anche dal Manifesto per quanto riguarda gli esteri, disarmante da pagina 4 a pagina 5, vediamo una situazione quanto mai inquietante per la Spagna e per quello che ne riguarda il movimento catalano, condanne altissime, proteste in tutta la regione, cariche della polizia contro il blitz all'aeroporto, l'ex vicepresidente Junqueras punito duramente, per lui 13 anni di prigione. Chiudo con il Carlino, al vice Puigdemont la pena importante di 13 anni, mandato d'arresto, ricordate lui è fuggito in Belgio, il verdetto dai separatisti o sui separatisti per meglio dire, e l'approfondimento che va a proposito di sport anche al Barcellona, una delle squadre più famose al mondo, ha preso le distanze dalla sentenza della Corte spagnola, nello stesso modo in cui la carcerazione preventiva non ha aiutato a risolvere il conflitto. Non lo farà la pena detentiva inflitta, perché il carcere non è la soluzione, ha affermato il club blugrana nel comunicato di ieri. La risoluzione del conflitto in Catalogna deve provenire esclusivamente dal dialogo politico, lo dice il difensore del Barça Gerard Piqué, ritratto in fotografia, e si è detto orgoglioso di far parte di questo club. E quindi il capitolo a fondo pagina 10 del Resto del Carlino, che riporta come Repubblica, ma per argomentazioni diverse, un impegno che viene dal mondo dello sport. Il Fatto Quotidiano, con atteggiamento semplicistico e ottimistico, dice: indipendentisti, condanne dure ma presto liberi. quindi è un bel problema. Allora, a decidere sulle loro sorti infatti sarà l'autorità penitenziaria catalana e quindi direttamente dipendente dalle istituzioni in mano agli indipendentisti. Se questo non bastasse, sempre il Tribunale Europeo dei Diritti Umani a cui rivolgersi per evitare di espiare la pena altrove. Questa è la pena breve, questo è il Fatto Quotidiano, ma forse è più un altro quello su cui alcuni politici spagnoli contano: mercanteggiare un'amnistia con gli indipendentisti per negoziare un'autonomia amministrativa. Questo è quello che dice per esempio il Premier Sanchez, ma o il ministro degli interni Fernando Brigadier Marlaska, ministro degli interni spagnolo. Ora ragionevolezza, siamo pronti a tutti, ma come fai a trattare con uno quando gli metti in galleria i capi per decine di anni? Comunque è la teoria, no? Il bastone e la carota, solo che la carota non so dove la mettono, il bastone è sicuramente sulla testa. Dunque i separatisti protesteranno, poi forse organizzeranno un altro referendum che porterà ad altri arresti. Proprio non riuscite a parlare? Separiamo il piano politico da quello giudiziario, con la sentenza penale il processo è finito, quindi dimmi, buttiamo via la chiave di quelli in galera. Ora tocca la politica, appunto, come nei 15 mesi di vita di questo governo socialista il nostro mantra è un stato legge e dialogo. Abbiamo riunito le commissioni, riattivato istituzioni, siamo pronti a discutere e molto di autonomia, autogoverno e competenza, ma non di indipendenza e autodeterminazione. Non lo permette nessuna Costituzione europea. Poi non si domanda perché quando a Hong Kong occupano l'aeroporto armati fino ai denti, mascherati, lanciando moto contro i poliziotti, è un fatto di libertà. Quando a Barcellona occupano l'aeroporto disarmati, a volto scoperto, cantando pacificamente gli indipendentisti, sono dei criminali. Questo è un famoso mistero che il diritto internazionale non riesce ancora a spiegarci. Detto questo, ancora abbiamo la decidere allora tra scontri feriti all'aeroporto di Barcellona. Kim Turra dice il governo rifiuta questa sentenza ingiusta, antidemocratica, contro l'impedentismo e il diritto all'autonomia della Catalogna. Quindi per il momento almeno la dirigenza della Catalogna indipendentista è unita nel dire no a un mercanteggiamento tra amnistia e autorità amministrativa. Ma ne parliamo comunque su questo tema con Luca Tancredi Barone, giornalista che sta proprio nella città di Barcellona. Conoscere questa sentenza, che già in realtà nei giorni scorsi era stata filtrata anche ai mezzi di comunicazione per sondare un po' quale sarebbe stata la reazione, il che già dice molto su quello che sta accadendo in questo paese. Beh, dicevo, la sentenza di oggi è stata proprio una bomba atomica, è un totale di quasi 100 anni di carcere per 9 dei 12 imputati, per 3 invece, quelli che non erano in carcere preventiva, ci sono solo delle condanne, il divieto di accedere ai pubblici uffici per pochi anni. La sentenza è molto dura, nonostante il fatto che l'accusa di ribellione non è stata mantenuta, perché era davvero complicato sostenere che ci fosse stata una ribellione, c'è sostanzialmente un colpo di Stato, qui non c'è stato nessun colpo di Stato, ma è anche molto difficile sostenere che ci sia stata una sedizione. Ma chi aveva pensato in una sentenza che sarebbe stata un pochino più accondiscendente, che avrebbe abbassato un po' la tensione, naturalmente è stato smentito, perché le sentenze sono comunque molto molto severe, benché ci sia una piccolissima concessione per cui sostanzialmente si lascia aperta la porta, la possibilità che ci possa essere un regime carcerario praticamente a partire da subito, sostanziale fino in libertà, in cui si potrebbe uscire tutti i giorni, ma certamente comunque la sostanza della condanna rimane. Infatti le reazioni sono state immediate, ci sono sia manifestazioni in piazza, adesso c'è un tentativo di bloccare l'aeroporto, sono state bloccate strade, autostrade, stazioni, eccetera, e poi anche ci sono state delle reazioni istituzionali da una parte del governo catalano, che sostanzialmente, come già era atteso, naturalmente si è posizionato contro queste condanne, anzi ha cercato il presidente Quim Torra di mantenere un tono duro e anche molto di confronto con le autorità spagnole, ma cercando di non superare quel limite che avrebbe dato la scusa, soprattutto adesso in tempo preelettorale, ai partiti principali, tra cui anche il Partito Socialista, che si è distinto per essersi allineato completamente alle posizioni della destra più estrema, e avrebbe dato appunto loro la scusa di invocare nuovamente il 155, cioè l'articolo che mette sotto

dialogo. Da allora Karkonski ha continuato a credere in un cambiamento che ai tempi, visto le percentuali di voto, sembrava veramente irrealizzabile. Tra tante notizie che abbiamo dato inquietanti finora, ho voluto aggiungere questa che proviene solo dal Manifesto. Ci avviciniamo all'Italia per quanto riguarda anche la nostra rassegna parte esteri. Beh, molto vicini all'Italia, siamo a pagina 2 della Stampa, ne dà un'importanza fondamentale: fuga di documenti riservati, il Papa un peccato mortale, via il capo della gendarmeria. Il generale Gianni aveva diffuso le foto di 5 dipendenti coinvolti in un'inchiesta, ieri ha presentato le dimissioni e Francesco lo sostituisce con un suo uomo. Sappiamo bene le difficoltà e le dicotomie che sono presenti nella Chiesa e anche per quanto riguarda la politica, chiamiamola così, di Papa Francesco. L'Italia, prima di passare alla Brexit, volevo dire solo la polemica dell'Alto Adige, la storia al contrario, un altro muro che si va a alzare, fa diventare sempre di più un'Europa simile a tanti quartierini dove no, io porto via il pallone così non giochiamo più, e tante altre situazioni che, come ho detto, a macchia di leopardo si creano di contrasto in un contesto già di per sé delicato. Buon per gli altoatesini che non sono in Cina, perché Xi Jinping ha detto, il leader cinese, chiunque sia impegnato in spinte separatiste in qualsiasi parte della Cina sarà ridotto in polvere e fatto a pezzi. Questo è dato impatto, è sempre da c'era il dialogo. Ma Brexit allora, Boris, Brexit 31 è la mia priorità, stop alla libera circolazione delle persone, quindi muri, pene più severi per i crimini violenti e delinquenti stranieri, perché se delinquente, ma se delinquente straniero è peggio, perché muori peggio se ti ammazza uno straniero. Un sistema di immigrazione a punti sul modello australiano, sostegno della sanità e un po' di ecologismo, perché un po' di ecologismo però non si nega neanche al porco, questo è di questi tempi. E allora dice di Londra, di salvi la regina, e dal giornale passo al Fatto Quotidiano, salvi la regina, il divorzio dell'Unione Europea, i laburisti solo propaganda elettorale. Sempre a Londra una cosa che ci porta anche un po' di ecologia. Dalle minigonne, cioè da Carnaby Street, ricordate il tempo dei Beatles, agli oceani puliti, rivoluzione verde a Carnaby Street, Londra, George Jagger, siamo sempre lì, no? E i figli della rockstar, elimineremo la plastica, monouso dai negozi. Hey, Bungalow Bill, what did you kill? Bungalow Bill. Hey, Bungalow Bill, what did you kill? Tiger hunting with his elephant and gun. In case of accidents, he always took his mom. He's the all-American bullet-headed Saxon mother's son. All the children sing. Hey, Bungalow Bill, what did you kill? Bungalow Bill. Jungle where the mighty tiger lies, Bill and his elephants were taken by surprise. So Captain Marvel zapped him right between the eyes. All the children sing. Hey, Bungalow Bill, what did you kill? Bungalow Bill. E i bambini dicono, ma cosa uccidi Bungalow, Buffalo Bill? Quindi dalla Carnaby Street dei Beatles veniamo invece al casino degli italiani, ovvero sia quello che è la quadra che non arriva dagli accordi governativi, viene rimandata anche il Consiglio dei Ministri. Dice il Corriere, tetto ai contanti, ma nel governo lite sulle misure, l'ipotesi, pagamenti elettronici oltre i 1.000 euro. E contanti a tetto 1.000 euro, detrazioni in base al reddito. Io ero convinto che anche prima le detrazioni fossero in base al reddito, non è che esatto. Il capo della Fiat detrae quanto il capo di un operaio. Invece questo sembra essere un roccafuori italiano che infatti fa gridare oggi ai giornali un governo di cretini, questo, perché Greta Thunberg, che copriva di tutto, anche delle dissidi tra PD e 5 Stelle secondo il Tempo di Roma, risse sulla manovra, sono d'accordo solo a tassare fumo e plastica per far cassa e bella figura. E infatti dice il giornale, questo tema che riguarda giochi, bevi, fumi, sei il tartassato medio. Se giochi, bevi, fumi, hai altri problemi. Quindi è meglio che ti fai curare, prima ancora delle tasse sul gioco d'azzardo, sui liquori e sulle sigarette. Lo Stato a caccia di soldi colpisce caffè, sigarette, zucchero e slot machine. E che sarebbe il tartassato medio. Speriamo che la salute italiana sia migliore, che non abbiamo contemporaneamente questi problemi, queste problematiche. Comunque, questo è il giornale, come sempre, apocalittico, di una manovra che fino a prova contrario, se c'è un difetto è davvero enorme, non osa. È solo una manovra di contenimento, non è una manovra di tartassamento che aggiunge tasse, apre varche, almeno questo è quello che... Ma la destra resta in canna, lancia in resta, scusate, Libero vuole rieducarci a colpi di tasse, e quindi c'è anche un po' Pol Pot, no? Governo distrazioni, gabelle su Coca-Cola, aerei, snack, bottiglie di plastica. La corda non c'è, i giallorossi si attaccano a tutto per raccattare soldi. Manovre in alto mare, azzerano gli sgravi fiscali sopra i 100.000 euro. Mentre il Sole 24 Ore dice: fisco rinvio rate per 4 milioni di imprese. Sarà inviata il 16 marzo del 2020, la scadenza del 18 novembre per pagare le rimposte dovute alle partite IVA, ISA e forfettari, che hanno scelto di rateizzare il versamento. Una boccata d'ossigeno per 4 milioni di imprese e professionisti, frutto di una trovata contabile del Ministero dell'Economia, che porta 3 miliardi di tesoretto per la manovra, spostando la data. Gli incassi previsti nel 2019 slittano l'anno prossimo e possono essere utilizzati a copertura della legge di bilancio. Insomma, sono delle manovre da commercialista come la Tremonti, degli artifici contabili che non è che cambia l'economia, ma spostano le voci da un anno a quell'altro. Questo è quello che si legge dal Sole 24 Ore. Curioso l'articolo a pagina 6 del Resto del Carlino per quanto riguarda la politica interna, lo scambio e la Giano bifronte. Troviamo in fotografia tra i due Matteo. C'eravamo tanto odiati, e nel salotto di Vespa, che è diventato un po' il confronto più veritiero, no? Per la pappa data in pasto agli italiani. Salvini e Renzi, tutti e due alla ricerca di una legittimazione da parte del nemico. Sì, perché volevano essere loro il motivo di confronto, proprio poi i due Matteo, insomma, ma qualcosa non è andato, per cui andiamo a vedere a tale proposito La Stampa in prima pagina. Manovra, non c'è accordo, scontro Di Maio Renzi, lite su quota 100 e cuneo fiscale, torna l'ipotesi di indicizzare le pensioni, è la finanziaria dello scontento, allo stesso la maggioranza è divisa. Francesco Bei riporta in un occhiello di approfondimento sul quotidiano torinese, stasera al CDM per varare il documento da portare a Bruxelles. Vediamo per quanto riguarda la scure sulle detrazioni a partire da 120.000 euro, si salvano solo i mutui, rotto il tabù degli sconti fiscali a pioggia, vietati sopra i 240.000, la Serenzi 5 Stelle impone la soglia più alta e solo dal 2020. Questo è per quanto riguarda l'aspetto legato all'economia. Il centrodestra, sabato in piazza San Giovanni a Roma ci sarà anche il Cavaliere, Salvini prova a dare la spallata al governo. Silvio teme i fischi, perché darsi alla piazza per Silvio Berlusconi, diciamo che in ogni caso non è certo motivo di tranquillità. 10 5 Stelle pronti a unirsi alla Lega, ma in stand by per il momento opportuno. Andiamo da altre parti. Conte adesso gioca a fare il nuovo Prodi, federare gli alleati, gli chiedono appunto se c'è una possibilità di riunire allo stesso modo come fece Prodi con, si chiamava esattamente l'Unione, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, qui ritratto ieri a una riunione ad Avellino, tenta e terra di democristiani di sinistra, Ciriaco De Mita, il premier dice no a chi gli dice ormai sei uno dei nostri. Un po' c'è questa tentazione per quanto riguarda il proseguire delle riforme o del governo. Velocemente vado anche su Repubblica, che dà ampio spazio all'aspetto economico di cui vi abbiamo già parlato. A Conte la laurea di democristiano ad honorem, i 100 anni dalla nascita di Sullo, il premier ad Avellino incoronato dal clan dei DC locali, da, ho citato De Mita, ma anche Mancino, da Bianco a Rotondi è uno di noi. L'avvocato fa più selfie di Salvini e dice: mi impegno a unire il centro-sinistra. Conte nel Sinedrio, ex democristiano, arriva la chiamata per i cattolici in politica. Una volta diceva laicità, cioè adesso sono cattolici finiti in politica, perché un po' è cambiata la prospettiva per molti. Ad Avellino basta torpore, tornino ad animare la società. E c'è chi dice: bravissimo Conte, de Rotondi. che nel centro-destra adesso c'è poca visibilità, quindi magari cerca una rinascita in un grande centro casiniano o contiano, vedremo. Ma poi c'è sabato, avremo la Leopolda, quindi prepariamoci a tutto, avanti clown, fuori trapezisti. Soluzione, amici miei, dice Marco Travaglio, da quando ha fondato il partitucolo simoro Italia Viva, Renzi si sveglia ogni mattina con un cruccio, come finire nei titoli dei TG della sera e i giornali dell'indomani. E siccome i giornalisti sono prevedibili, si regola così, dire sempre opposto agli alleati, nella speranza che quelli gli rispondano e monti la polemica. Faceva così anche Salvini, per un po' funzionò, tutti rincorrevano ogni sua flatulenza verbale o social per esaltarla o desecrarla, e la gente lo scambiava per il padrone del vapore, così essendo inabile al lavoro non combinava una mazza e guadagnava voti, mentre gli altri lavoravano da mane a sera e ne perdevano. Ora Matteo 2 lo copia, sperando che vada bene anche lui in queste ore, per dire sta cercando qualche VIP da esibire alla Leopolda, come se la politica fosse il Grande Fratello VIP o Temptation Island VIP. Infatti, anziché a una squadra di esperti di politici, affida Mario a Lucio Presta, ma per sua sfortuna ha un decimo dei consensi di Matteo 1, che quando ricattava il Conte 1 aveva la pistola carica, puntava alle elezioni che avrebbe stravinto. E invece la pistola di Renzi è scarica, il suo sogno di nuovo governo senza Conte, non avrebbe i voti 5 Stelle, ergo se rovesciasse il Conte 2 si andrebbe al voto e i renziani non vedrebbero più un seggio. Questo è il ragionamento di Travaglio. Ma naturalmente, se parliamo di elezioni, cosa c'è di meglio che dargli addosso agli immigrati? È un bene rifugio, no? Bastonare i più deboli porta sempre dei voti, perché quello un po' più sopra del più debole si sente molto con le spalle larghe, perché si vengono bastonati quelli che stanno di sotto. Questa è la vecchia regola. E allora immigrati assaltano le frontiere, questa è l'allarme del giornale. Qui ci vediamo le frontiere, un assalto, i barbari, no? Vediamo con le pietre, le cerbottane, le pelli di leopardo. Boom di irregolare Trieste, Lampedusa, Ocean Viking a Taranto. E il vento che soffia forte da sud-est non ferma le partenze. Chissà perché non si ferma le partenze. Leggiamo che è morto tre bimbi in un bombardamento in Libia. Leggiamo che in Yemen c'è la distruzione generale, cataclismi, alluvioni, e poi c'è la guerra in Siria. Chissà perché aumentano le partenze. Ma non mi riesco a farmi una ragione. Quindi c'è stato un picco di arrivi nelle ultime 72 ore con gli sbarchi autonomi che sono ripresi non appena c'è stato un miglioramento. Ma si apre anche il fronte dell'est. A Trieste è un boom di arrivi dalla rotta balcanica. Ma chissà perché. Non riesco a capire. Questo è. E allora Firenze premia Richard Gere, pro migranti, il no di Forza Fratelli d'Italia e 5 Stelle. Richard Gere ha ricevuto ieri a Firenze le chiavi della città, massimo onorificenza che Nardella gli ha riconosciuto per il suo impegno per la difesa dei diritti umani. Lo scorso agosto l'attore USA era andato a Lampedusa, salendo sull'Open Arms, a sostegno dei profughi bloccati a bordo. La cerimonia viene disertata da Forza Italia per 5 Stelle, i cui eletti hanno indossato le magliette con la scritta Stop alle ONG. Ecco, proprio un motivo di protesta veramente specchiato. A pagina 6 del manifesto, mi collego alle argomentazioni di Alfredo, a Taranto i 176 migranti della Ocean Viking, in serata al Via Libero dal Viminale, a Lampedusa una barca con più di 20 bambini, Alarm Phone segnala una nuova emergenza, l'Oxfam nell'Egeo, cambiando appunto zona, la situazione non cambia, la situazione è esplosiva e grave, sulle isole greche dell'Egeo la situazione dei migranti è esplosiva, prossima al collasso. La denuncia arriva da Oxfam, che ieri ha presentato un report sulle condizioni dei campi profughi sulle isole, dal quale risulta che oltre 18.000 persone, soprattutto famiglie siriane e afghane, sono giunte nelle isole greche tra agosto e settembre, più del doppio di quelle arrivate nello stesso periodo un anno fa, un numero record dal 2016 che è già elevatissimo, che va ad aggiungere agli oltre 35.000 migranti respinti nello stesso periodo alle autorità greche e turche lungo la rotta del Mar Egeo. A pagina 6, sempre del manifesto, a fondo pagina, si parla di una cronaca che noi seguiamo attentamente. È il rapporto di Antigone dell'European Prison Observatory. Carcere in Italia, celle tra le più affollate d'Europa. Nel nostro paese, nonostante il calo dei reati, il numero dei detenuti è andato crescendo. Il 70% delle figure professionali che lavorano nelle prigioni è agente penitenziario. Allora c'è questa analisi comparata dell'associazione Antigone, che rileva come l'Unione Europea siano quasi 600.000 le persone detenute, di cui quasi un quarto ancora in attesa di giudizio definitivo, quindi in teoria ancora innocenti.

Il giornale, quello di Sallusti, con Ludovica Bugliani in prima pagina, anzi con Marco Gervasoni, scusate, in prima pagina, parla della pericolosa paranoia gender, un regresso definirsi in base ai gusti sessuali. Poi si torna a un libro, The Madness Crowd, di Douglas Murray. La difesa della diversità è diventata paranoica e vede offese dovunque. Definirsi in base alle scelte sessuali o dati biologici un regresso, dice Douglas Murray, che dice, racconta la Gervasoni, è omosessuale, ma si dichiara, ma non da questo parte il suo ragionamento, anzi dice che è un regresso. E infatti sarebbe un mondo bellissimo se noi vedessimo la gente come persone, quindi non se neri, bianchi, gialli, verdi, non se cristiani, buddisti, atei o agnostici, non se per l'appunto etero o omosessuali, ma le vedessimo come persone, non già come popoli. Purtroppo non funziona così. Per esempio da Lecco, leggo nella cronaca milanese del Corriere, fuori da qua lesbica, insulti la collega gay. Quindi vedete che De Marri forse vive in un mondo dorato, ma la realtà per i lavoratori e le lavoratrici normali è molto diversa. Ospedale Manzoni, una dipendente denuncia, mi hanno isolata. Questa è la vicenda dell'eresia, che ancora suona come tale, gay, trans e quant'altro. If you love me, mi vicino, mi fai turbare. If you love me, così la testa mi fai girare. Quelle labbra che tu hai, quella bocca che tu hai, quell'odore che tu hai, io lo so che non so guai. If you love me, tu mi fai turbare. Tratti più in là, delle Sorelle Bandiere, un capolavoro dell'altra domenica di arboriana memoria negli anni Ottanta. Questo c'è un ritorno e abbiamo fermato. Veniamo invece ancora a qualche spicciolo di cronaca. Parliamo di ambiente o quant'altro. Milano futuro privatizzato, il grande affare degli scali delle ferrovie dell'estate, già successo a Bologna, eh? Aree verdi che vengono rese edificabili. Oggi la decisione sull'ammissibilità di ricorsi contro le norme cooperazione immobiliare, 1.250.000 metri quadrati dismessi dalle ferrovie. Un'altra opportunità per le città enorme di avere un'area verde, invece, viene vista solo come opportunità di business. C'è chi dice no, però il sindaco Beppe Sala ha firmato un accordo che concede diritti edificatori elevatissimi e quindi rende difficile questa edificazione, secondo l'articolo di Gianni Barbaccetto del Fatto Quotidiano. Torniamo sul fiume Sarno. Ieri sempre il Fatto aveva denunciato che il fiume è inquinatissimo, da sempre si promettono interventi invece non si fanno mai, è il quarto fiume più inquinato d'Europa. Allora oggi risponde Sergio Costa, che è il ministro dell'ambiente: il fiume Sarno è grave ma si può salvare, bloccare i flussi inquinanti lo dobbiamo alle persone che continuano a combattere. Certo, per avere dei soldi, non vedo in manovra nessun soldo per il fiume Sarno, forse potrebbero congelare le spese militari per dedicarle un po' al risanamento ambientale. Tant'è che mi sposto dal sud, da Sarno al nord, piove. E chi è che va sotto? Genova. Non è una gran notizia, ma notizia di questa mattina. Temporali forti, allagamenti e qualche danno nel ponente genovese a causa del forte temporale che colpisce la zona di Peglia Arenzano. La protezione civile genovese ha inviato un sms a dirigenti scolastici e genitori per avvertire che, date le forti piogge che si stanno verificando nel ponente genovese, le scuole del medio ponente e del ponente di Genova devono rimanere chiuse. Questa è la soluzione ambientale: quando piove si tengono chiuse le scuole, questa è la soluzione. Andiamo avanti. La forte perturbazione proveniente dalla Francia è bloccata dalla mezzanotte su tutta l'Italia, tutta la zona, ritardi, cancellazioni dei treni. Sì, chiudo con qualche notizia di cronaca. Abbiamo ascoltato le Sorelle Bandiere, io passo a un'altra grande bandiera, no? Questi dolori di un giovane Werther Buffon, le confessioni di Buffon: da giovane bullo a depresso, l'arte mi ha salvato la vita. Come si fa presto quando non sei più in auge a dare il buon esempio, no? Scrive una lettera a se stesso, adolescente del portiere della Juve: non basta la fama, devi farvi curare l'anima. Sì, ricordiamo che fino a poco tempo fa, adesso lui non so fino a quanto vuole arrivare indietro, ma non è passato tanto tempo quando lui portava sotto la divisa della Juventus la maglietta con scritto "boia chi molla". Ecco, adesso poi arrivano immediatamente i pistolotti, no? Però a questo siamo abituati e l'anestesia arriva puntuale ai tempi, che sapete bene come lo sport e il calcio soprattutto sia perfetto. Il resto del Carlino per la cronaca, in prima pagina, in approfondimento, la realtà delle stragi sulle strade. In Italia ogni giorno 472 incidenti, 9 morti, 665 feriti. Una campagna per dire stop alla carneficina. Cronaca locale, Carlino è il Carlino, quindi oltre il titolo più donne primario è Sant'Orso, il nuovo direttore di Chiara Gibertoni. Gli altri temi sono criminalità, SOS violenze e truffe, poi sbandati e pusci nella Samoto dimenticata, e quindi vince una casa giocando 2 euro. Questo, cioè, non poteva mancare questa, la buona notizia, sì, quella per la ludopatia. Mentre il Corriere della Sera va con la pagina politica rispetto alle imminenti regionali, 5 Stelle: c'è un veto su Bonaccini. La vicepresidente della Camera dice la Spadoni: senza di lui disponibile a dialogare col PD, difficilmente il PD rinuncerà a Bonaccini. La posizione dell'alleanza decisa dopo una riunione dei consiglieri regionali e parlamentari in quel di Napoli, questo è quello che arriva. Poi si parla molto della Basket City, perché la Virtus è prima, Fortitudo è seconda, ma immaginiamo che sia, speriamo, vorremmo che continuasse così, ma immaginiamo che sia un fatto di inizio campionato. Passiamo invece alla Repubblica. Sì, Repubblica parla di ambiente, la plastica che non riusciamo più a smaltire, rifiuti aziendali, l'Emilia accumula però il riciclaggio, non sta al passo, imprese in allarme, le Coop bianche a rischio 4.000 posti di lavoro e anche l'ambiente massacrato dalla plastica in aumento. Poi piange l'export verso Istanbul, anche per le imprese locali, l'effetto Erdogan, Union Camera, ma niente allarmismi. In sei mesi stiamo tranquilli, vendute armi per 476.000 euro, che si vanno ad aggiungere poi a tutte quelle che vi abbiamo elencato in precedenza. Si continua con il 2 agosto, si riapre il giallo dell'86esima vittima, la perizia sul DNA esclude che i resti attribuiti a Maria Fresu appartengono effettivamente alla donna uccisa dalla bomba in stazione. Il presidente dei familiari bolognesi, un elemento che non cambia nulla ai fini del processo. Rapidamente mi riporto in prima pagina per vedere se vi è da aggiungere altre notizie che non siano il crescentone di Luca Bottura. Gli scassi nostri, quarto posto per Bologna nella classifica sulla diffusione della criminalità diffusa dal Sole 24 Ore. In realtà c'erano dati molto più favorevoli, ma sono stati rubati. E direi di non rubarvi altro tempo. Noi concludiamo, vi diamo appuntamento a domani con Radio Bullet relativa a rassegna stampa sui 103.1, sempre alla stessa ora. Ascoltate buona musica sulle frequenze dei 103.1. Un caro saluto da Alfredo e William. Ciao a tutti.